Ciao a tutti, sono Gonzalo Moreira, benvenuti a Gironimo. Amici amici del ciclismo, del freddo, delle cantine, delle montagne, degli orsi, dei lupi, di cosa altro possiamo... Dei lumi, botta lume, che è dei lumi e anche dei lupi, perché ha corso nel Wolfpack, per cui è perfetto. Siamo stati introdotti dalla voce di Gonzalo Moreira, grandissimo, nostro amico do Portugal. La voce che sentite parlare qui, molto spesso sentite all'inizio di queste puntate, è la mia. Sono Filippo Cautz, questo è Gironimo, il podcast di Alvento dedicato al Giro 2023 in collaborazione con Shimano, realizzato dalla redazione di Bidon, che prevede tra le sue presenze anche Leonardo Piccione. Eccomi qua, buonasera. E Michele Pelacci, che ha sempre questa voce come le scorse puntate, no? Siamo sempre con le voci nostre a parlare. Sì, non siamo ancora riusciti a scambiarcele, prima o poi ce la faremo. Oggi hanno, si sono cambiati la maglia rosa, tutti pensavano che Almirai l'avrebbe portata fino a Roma. Ma e invece insomma, tutti, no. Non la maggioranza delle persone, alcuni. La persa si è difeso però molto bene. Molto bene. Con grande, come dire... Stile, è vero. È stato uno svestito di rosa stiloso. Io mi chiedo, la Groupama FDJ aveva pitturato di rosa tutto quanto l'autobus. Ora tolgono con un acido. Andranno a lavarlo. Lo lavano? Basta una lavatina all'autolavaggio? Non lo so. Questo sarebbe dovuto essere il tema della puntata, perché ce lo dici adesso che abbiamo già iniziato a registrare? A scaletta fatta viene fuori. Dovremmo dedicare l'intera giornata a questa come cosa. La Groupama pulirà, toglierà il rosa dal bus. C'è anche l'altro grande mistero che è venuto fuori sia nel nostro gruppo Telegram che ieri sera a cena con Stefano Rizzato. Come hanno fatto a far avere immediatamente una bici rosa ad Almirail? Perché dubito che fossero partiti con una bici rosa della taglia di Almirail. È vero. E ci sono delle ipotesi a che... cui bisognerà trovare delle risposte, o forse no. Risposte che abbiamo cominciato ad avere finalmente oggi dalla strada, dal Monte Bondone, da questa bella... Io pensavo tappa. Quelle del compito in classe, di statistica. No, quelle del compito in classe... Poi dedicheremo... Ci sarà tutta la seconda parte di puntata sarà dedicata a quello. Okay. Oggi se ne è parlato anche durante la diretta televisiva del compito in classe. Avrete ascoltato l'episodio di ieri in cui vi abbiamo proposto, no, le tracce di statistica, del compito di statistica dell'Istituto Natta di Rivoli. Dove si chiedeva di calcolare la probabilità, no, dei fratelli Bais in fuga, uno, l'altro, tutti e due, eccetera. Ma ne parleremo più avanti. Risposte invece che un po' riguardo la classifica del Giro d'Italia abbiamo cominciato ad avere oggi. Sono successe molte cose o tante cose che non erano successe prima. Alla fine bastava attendere, come spesso accade nel ciclismo. Abbiamo avuto la giornata che molti attendevano oggi e nelle giornate precedenti. Sono successe tante cose, proviamo a fare un po' il riassunto, un po' di ordine, come sempre con Michele Pelacci. Fuga di quasi 29 elementi, con due messi bene anche in classifica generale come Haig ed Aurélien Paré-Peintre, cacciatore di tappe e gregari di uomini di classifica. La Jumbo-Visma non ha nessun corridore in fuga e si incarica di tirare il gruppo, soprattutto grazie ad uno splendido Edoardo Affini. Il commendatore Affini. Il commendatore. Ben Healy fa incetta di punti per la maglia azzurra, tanto che domani la vestirà. Verso la metà del Monte Bondone anche gli ultimi corridori rimasti in avanscoperta vengono ripresi. Tra questi Ulissi, Zana, Conrad e Verona. Verso i meno 8, una decisa tirata di Jay Vine seleziona significativamente il gruppo di favoriti. Rimangono Almeida, Roglic e Kuss, Zana ed Ambar, con Geraint Thomas, già virtuale maglia rosa. Sulle ultime rampe del Bondone va in scena la tanto attesa uno contro uno, no? Questa battaglia, testa a testa, tra i migliori. Almeida allunga, Thomas lo raggiunge, Roglic soffre ma limita i danni grazie a Kuss. Allo sprint, Almeida si aggiudica la tappa, G la maglia rosa. Sì, si sono divisi tappa e a maglia. Derek G è maglia rosa. G. Mi ero distratto. G come Geraint o come Geronzio o come Gerasimo o come altro. Gomodossola? No. Gomogossola, anzi, con no. Due G. oggi il 37enne, quasi fra due giorni compirà 37 anni, Geraint Thomas si è ripreso la maglia rosa. Leggevo che sarebbe un record se vincesse il Giro d'Italia, perché il vincitore più vecchio, più anziano del Giro nella storia è Fiorenzo Magni, addirittura 1955, a 34 anni e 180 giorni. Quindi se Thomas vincesse il Giro a 37 anni compiuti, sarebbe di parecchio il vincitore più anziano della storia del Giro. Ma prima di arrivare a Thomas, parliamo un po' di come è arrivata questa vittoria di tappa di João Almeida, perché Michele ha menzionato giustamente l'azione della UAE, che con Jay Vine nello specifico e Davide Formolo poi a 8,5 km hanno fatto questa clamorosa tirata in testa al gruppo, che ha, come dire, sgretolato quel che rimaneva del gruppo non più maglia rosa, perché la maglia rosa Armirail si era già staccata un po' prima, e è intervenuta la UAE quando ha smesso di lavorare la Jumbo-Visma di Roglic, che ha smesso molto presto, ha esaurito tutti i suoi uomini tranne Sepp Kuss a 14 km dall'arrivo. E a quel punto, anziché... Sì, però ha anche iniziato molto presto. Ha iniziato presto, cioè, e ha finito presto. In realtà sono stati tanto davanti gli uomini della Jumbo, solo tanto in un momento distante dall'arrivo. Sì, insolitamente, perché appunto a 14 dall'arrivo già non c'era più nessuno in testa. La UAE ha preso l'iniziativa con una certa dose di coraggio, perché oggi João Almeida ha avuto il coraggio che non c'è stato nelle tappe precedenti, di muoversi in prima persona e di rischiare qualcosa, di rischiare di essere raggiunto, di rimbalzare, come si dice in questi casi. E per molti minuti lui è rimasto lì in testa con pochissimi metri di vantaggio sugli altri, no? Sembrava che stesse sprecando delle energie lì con 20 metri su Thomas e Roglic. Invece questo suo insistere col suo ritmo, col suo passo solito, ha portato poi a questa difficoltà, che non è stata una crisi, ma difficoltà è stata, di Roglic, che è esplosa, tra virgolette, quando Thomas poi si è unito a João Almeida. Sì, devo dire che lo stare vicino di Almeida... io oggi ho avuto la fortuna di fare la giornata sull'auto del servizio tecnico neutrale di Shimano, ed eravamo esattamente alle spalle del gruppetto con Roglic, Almeida e tutti quanti. Per cui, insomma, l'ho vista da lì e... È vero che Almeida era vicino, però nel momento in cui ha forzato... ha chiaramente messo una distanza tra sé e gli altri, e quella distanza, stando a ruota di quel gruppetto, era totalmente percepibile. Non c'era assolutamente l'inerzia per dire va bene, ha fatto lo scatto, adesso si è fermato lì e pian piano gli andiamo sotto. È stato un costante inseguimento, e quell'inseguimento secondo me è stato sfibrante per tanti. Poi ho delle riserve su come si sono mossi gli Jumbo, ma su questo ne parliamo dopo. Sì, è andata così, nel senso che Almeida oggi ha fatto davanti, attaccando, quello che di solito fa da dietro quando deve rimontare. Si è messo lì col suo passo steady, ha detto lui, ha detto in conferenza stampa: io non ho fatto nulla di nuovo, io ho salito, ho scalato il bondone come faccio di solito, col mio ritmo, col mio passo, solo che questa volta il suo passo era davanti agli altri ed era migliore di tutti, di quello di tutti gli altri, tranne che di Geraint Thomas, che poi l'ha raggiunto ed è stato fondamentale, perché poi quell'azione di Almeida si è concretizzata, ha portato alla difficoltà di Roglic quando Thomas si è unito all'attacco al capitano della Jumbo. Sì, due cose. Qualcuno su Twitter ha scritto che ha fatto la reverse Almeida, no? Perché di solito fa l'elastico indietro rispetto al gruppo, questa volta l'ha fatto in avanti. Una cosa che è stata interessante, però, quando Almeida in conferenza stampa ha parlato del rientro su di lui di Geraint Thomas, ha detto che gli è arrivato sotto come un fucking rocket. Sì, è vero, sì, ha quindi detto proprio così. Due corridori che, insomma, sono molto rispettati, secondo me, nella loro azione oggi, e si sono anche forse rivelati nella loro forza all'altro. E entrambi si sono, come dire, messi paura a vicenda, forse, no? Hanno capito che questo rivale è molto forte. Hanno, come la strada vuole, collaborato, perché si sono resi conto che il loro nemico principale non stava avendo la sua giornata migliore, quindi si sono dati cambi nel finale, come era giusto che fosse, Thomas e Almeida, e hanno portato a casa la bellezza di 25 secondi, che poi, per come si erano messe le cose, non sono nemmeno così tanti, perché in tutto questo Roglic è lo sconfitto di giornata, ma non ha assolutamente perso le sue probabilità di vincere il Giro d'Italia. Per tutto questo, dopo tutto questo, anzi, andiamo a leggere l'ordine d'arrivo e la classifica generale e poi continuiamo un attimo ad analizzare quello che è successo, perché ha vinto João Almeida su Geraint Thomas allo sprint e a 25 secondi sono arrivati Primoz Roglic e l'ottimo Eddie Dunbar. Quinto è arrivato il compagno di squadra di Roglic, l'angelo custode di Roglic oggi, Sepp Kuss, 1 minuto 03. Sesto, Ilan Van Wilder della Soudal a 1 minuto e 16 a regolare un gruppettino che comprendeva al suo interno Damiano Caruso, Einer Rubio, Laurence De Plus e Timen Arensman, gli altri due compagni di squadra di Geraint Thomas. Undicesimo è arrivato Kemna a 1.20, dodicesimo Carty a 1.26 e chiudo citando gli altri due uomini di classifica o presunti tali, Andreas Leknessund oggi 14esimo a 2 minuti e 42 e Bruno Armirel che continua a essere comunque in classifica generale fino a questo momento, che ha perso 4 minuti e 24 da João Almeida. In virtù di tutto questo la classifica generale vede Geraint Thomas in maglia rosa con 18 secondi di vantaggio su João Almeida e 29 su Primoz Roglic. Abbastanza solidi i primi tre della classifica in questo momento. Quarto è Damiano Caruso a 2 minuti e 50. Quinto Eddie Dunbar a 3 minuti e 03. Seguono tutti oltre i 3 minuti di distacco Kemna al sesto posto, Bruno Armirel a 3 minuti e 22, Leknessund, Arensman nono e De Plus decimo. Leonardo, sta perdendo tempo perché finalmente ho preso ben due pronostici oggi. Due, sia la vittoria di tappa di Almeida che la maglia rosa di Thomas. È vero, giusto, giusto. Sono giusto. Caldissimo ormai, signori miei. Giusto, è vero, bravo. Anche se mi dispiace un po' che la maglia rosa non l'abbia presa Almeida, un po' per il tuo, così, per farti sbagliare un pronostico, ma soprattutto perché pensate se l'avesse presa Almeida, nei primi 8 della classifica generale ci sarebbero stati 4 corridori ad aver vestito la maglia rosa in questo Giro d'Italia. Abbiamo statistiche anche su questo, quante volte ma è successo. Ma so che all'Istituto Natta faranno un'interrogazione apposta su questo argomento. Sì, in tema di pronostici, io da un po' di tempo Almeida non lo pronostico più perché non voglio, giocarmelo. È un corridore che abbiamo visto crescere in questi anni, no? Perché lui considera il Giro, usa il Giro come sua piattaforma per crescere. E la sua crescita è lineare, è costante. L'anno scorso c'è stato questo stop dovuto al Covid, non è partito durante la terza settimana. Però è un corridore che sta percorrendo veramente una traiettoria conseguenziale, logica. Ed oggi ha vinto per la prima volta al Giro d'Italia. Lui ha indossato la maglia rosa per diversi giorni, però oggi è la sua prima vittoria di tappa. E non solo la sua prima vittoria al Giro d'Italia, ma la prima vittoria di peso in una carriera, perché parliamoci chiaro, Almeida, che ha solo 24 anni, ricordiamocelo, perché sembra sempre un veterano, visto che è tanto che lo vediamo protagonista al Giro, è la sua quinta vittoria nel World Tour, ma le precedenti erano al Giro di Polonia, due tappe, una classifica generale e una tappa alla Volta a Catalunya, per cui insomma adesso svetta decisamente questo risultato nel suo curriculum. Secondo me è la classe 98 che lo aiuta in questo, e a parte le cavolate. Perché sei coinvolto in prima persona col 1998? Perché ci sono nato. Ah, e ci sei nato anche tu prima o dopo Almeida? Poco prima. Ah, vedi. Qualche mese prima. Quindi è più giovane di me anche Almeida. Sì, questa vittoria è un po' anche la consacrazione del carattere di questo corridore, perché oggi ha vinto con il coraggio, con la testardaggine che gli è propria, l'ha usata come arma offensiva oggi, anziché negli altri casi l'abbiamo visto usarla in modo difensivo, oggi l'ha trasformata in arma offensiva ed ha funzionato. E puoi per favore nominare Theo Geoghegan-Hart? No, oggi sono... No, perché mi fa un po' impressione, mi sembra quasi che tu sia passato a un altro personaggio. No, nominalo, così, no, almeno l'abbiamo nominato in puntata. Theo Geoghegan-Hart, okay. Ciao, ci vediamo presto, speriamo. No, però João Almeida è sempre stato nelle mie grazie, cos'altro volevo dire? Avete visto, avete capito cosa stava mangiando? Perché questo è un'altra dei tormentoni di questo Giro, insieme a Sarà perché ti amo, che i ciclisti del mondo sembrano ormai aver adottato come inno della loro vita. C'è questo riso che molti corridori mangiano dopo l'arrivo di tappa col ketchup. Hanno questi barattolini, queste monoporzioni di ketchup E Almeida ovviamente l'ha utilizzata anche lui oggi in conferenza stampa. In più nel suo riso c'era anche un omeletto, una frittata, non ho capito, okay. Qualcosa che non avrei voluto assaggiare, devo essere sincero. Però a lui probabilmente piaceva. A lui piaceva molto. Mathieu Van Der Poel è un grande mangiatore di pasta asciutta col ketchup. No, ma poi ha chiesto espressamente Almeida di non dirlo al suo nutrizionista. Noi attraverso questo podcast arriviamo a ogni, no? General ogni manager. Soprattutto ai nutrizionisti. Sì. Abbiamo la quota nutrizionisti è elevatissima nei nostri ascoltatori. Con le ricette dei campioni, i nutrizionisti. Certo. Sì. Continuerei a lungo a elogiare le qualità di Joao Almeida, ma mi fermo perché lasciamo spazio giustamente a un commento che ci arriva direttamente dal Portogallo, da Eurosport Portogallo, Gonçalo Moreira, che ci racconta un po' le sue emozioni e cosa significa per il Portogallo questa vittoria di tappa importante di Almeida di oggi. Joao Almeida finalmente ha avuto il giorno in cui ha lavorato per 3 anni e mezzo, prima in Quickstep e ora negli UAE. La vittoria sul Monte Bondone è simbolica per essere stata la prima in un grande giro e per essere stata al Giro d'Italia. Almeida e il Giro hanno una storia d'amore e come in ogni relazione si sono alti e bassi. Nel 2017 il giovane João è entrato nella top 10 in una cronometro al Baby Giro. Nel 2018 ha mostrato tutta la sua classe. Il recupero da una caduta per inciguere Alexander Vlasov nella lotta per la vittoria finale. In elite, il Giro d'Italia non poteva avere un inizio migliore. 15 giorni di maglia rosa. Almeida sulla mappa del ciclismo mondiale nella sua prima stagione alla Quickstep. Ed è così che è nato il sogno di vincere un giorno il Giro, che è più vivo che mai dopo aver vinto una mitica tappa su una mitica salita. Come Charlie Gould, volò sopra la montagna. Mancava solo la leadership della classifica generale, ma credo che, se non prima, sarà sul Monte Losari. João è nato per le cronometro, uomo e macchina nella prova della verità e presto in un giorno che può segnare a carriera. Fino ad allora ci sono molte difficoltà, niente conquistato, ci sono ancora 2 finali in salita, ma il Portogallo sogna. E come ho detto prima in questo podcast, sognare è gratis. A gennaio ho parlato per 1 ora con Iñigo Samillán, guru della performance negli UAE. L'allenatore di João Almeida ha detto che discute con lui come se fosse un studente di medicina all'Università del Colorado dove Samillán è professore. L'allenatore di Tadej Pogacar riconosce che lo sloveno è 1 su 1 milione, ma ha anche una predilezione speciale per il gentile e riconoscente João Almeida. «È il mio progetto speciale», mi ha detto Iñigo Samillán durante il Media Day del team. Concludo con un ricordo. Breve, 2017, la prima intervista che ho fatto con Joan Almeida. Il titolo, un gran riserva de 1998. Non mi sbagliavo. E allora, grazie come sempre a Gonçalo Moreira per il suo entusiasmo, anche per i suoi riferimenti storici rispetto alla storia del ciclismo portoghese. Storia del ciclismo portoghese che è difficile da conoscere se la si approfondisce, è facile se si resta in superficie perché non sono grandi nomi noti, non sono tanti nomi noti a livello internazionale, ma una scena locale che è magnifica. E non so come sia la scena locale del ciclismo gallese. No, quella non la conosco. A livello globale invece ce n'è uno abbastanza famoso. Tanto che sta andando tanto bene che oggi è arrivata la collega di BBC Wales. Questo vuol dire che ci sono vibes positive nel Galles rispetto a Geraint Thomas. È come non averne, visto il giro che sta facendo Thomas. Gli manca solo la vittoria di tappa. Si è ripreso la maglia rosa nel giorno in cui avrebbe dovuto e avrebbe avuto senso riprendersela. Ha la squadra ideale adesso per poterla difendere ed è in uno stato di forma come non lo vedevamo da tanto tempo. È stato fondamentale il suo ricongiungersi ad Almeida, perché lui si è reso conto con la sua esperienza, col suo occhio, che Roglic forse oggi non era nella sua giornata migliore. Questa è stata una grande scelta tattica da parte di Thomas, che insieme al coraggio di Almeida hanno fatto la differenza in questa giornata sul Bondone? Sta andando molto bene, dal secondo posto alla Cronoli Cesena ad adesso è un super Geraint Thomas. Attenzione però, perché capita quando un giro non è super dominato, un Grand Tour non è super vinto in modo lapalissiano, insomma, avere... In modo super lapalissiano. Super... avere una giornata no. Se oggi la giornata no di Roglic è comunque riuscito a mantenere, a contenere i danni, ecco. Questo è importante, perché se riesce a riprendersi è un cliente molto scomodo e ancora molto vicino. Sì, non so nemmeno se definirla poi una giornata no di Roglic. È stata una giornata ni, sicuramente, non positiva, però nell'ultimo chilometro ha anche recuperato qualcosina e ha ridotto lo svantaggio poi complessivo a 25, il ritardo dal vincitore Almeida a 25 secondi, che non sono tanti in una giornata in cui uno va in difficoltà, come abbiamo visto Roglic in difficoltà. È stato salvato da Kuss? No. No? Assolutamente no. No. È stato, come si dice, affossato da Kuss. Attenzione, quest'oggi avrebbe fatto meglio se non avesse seguito meglio Kuss. Non lo so, ma quello che si percepiva guardandoli lì dietro è che il ritmo che si è messo a fare Kuss, Roglic non ce l'aveva nelle gambe. Roglic è andato in difficoltà stando dietro a Kuss. Kuss è un gregario che quel mestiere lì non lo sa fare, l'abbiamo visto tante altre volte. È uno bravo nelle fughe, bravo a star vicino ai capitani, ma è uno che avanza sempre molto a strappi. E anche oggi andava molto a strappi. E Roglic non riusciva a stargli dietro. Roglic era evidentemente in difficoltà quando Kuss faceva il ritmo. Non è un caso che Thomas se ne sia andato. Non è un caso che quando Thomas se n'è andato e bisognava inseguire, e a quel punto Roglic doveva metterci tutto se stesso, non ha mai dato un cambio a Kuss. Ha continuato a tirare Kuss. No, sì, questo è vero. E quell'azione di Kuss... Non posso dire come sarebbe andata diversamente la corsa, ma io credo che quell'azione di Kuss sia quella che ha messo prevalentemente in difficoltà Primož Roglič. È un punto di vista interessante. Resta il fatto che non ha avuto la prontezza Roglic di rispondere né ad Almeida né a Thomas, quando era il momento di farlo. Un Roglic al massimo della forma avrebbe risposto in prima persona. No, no, certo, non si è staccato nemmeno Dunbar, che stava facendo l'elastico lì dietro da Rovereto praticamente, per cui no, è chiaro. No, e c'è qualcosa evidentemente che non ha funzionato oggi in Roglic, a sorpresa, perché sembrava il più forte di tutti in salita, soprattutto in questo giro Roglic. E sarà interessante capire come risponderà nei prossimi giorni. Sarà interessante capire perché ha fatto fare tutta la tappa in testa alla sua squadra, forse per simulare questa sua giornata un po' così, o forse perché pensava di averne di più. Una delle due sarà la risposta, non la conosciamo. O magari entrambe sono la risposta, e forse la risposta è anche che preferiva una corsa un po' più controllata per giocarsi qualcosa nel finale, con la sua sparata nel finale, pensando di averla. Il finale era anche molto propizio per Roglič, era ideale come tipo di arrivo per di tappa, le sue caratteristiche. Fatto sta che il giro è aperto, i valori sono ravvicinati tra i tre i grandi della classifica generale, e questo è un dato molto positivo per il futuro del giro, perché avere Roglič ancora lì a meno di 30 secondi dalla maglia rosa significa che anche nei prossimi giorni vedremo qualcosa di interessante, movimenti che potrebbero farci divertire. Importante segnalare, rimanendo e chiudendo il discorso sui primi tre, il ritiro di Pavel Sivakov, che si è ritirato nel corso della tappa, ed è un uomo importante in meno per Thomas, che certo continua ad avere De Plus e Aresman, che sono in top 10 in classifica generale. Non è partito anche Simon Clark questa mattina, e nemmeno Ballerini, lasciando in due i Sudal Quickstep. Sul ritiro di Pavel Sivakov, piccola curiosità, Radio Corsa ha annunciato il ritiro di Pavel Sivakov invitando un'auto della Ineos ad andarlo a recuperare, perché probabilmente si è ritirato da solo senza l'ammiraglia della squadra vicino. L'ultimo non partito è Emmanuel Gebrezabie della Trek. Segnalo anche che il quarto scalatore più forte di questo Giro d'Italia per adesso, sul Monte Bondone almeno questo si è visto, è stato Eddie Dunbar, aiutato anche per parte della salita da Filippo Zana, il campione italiano di nuovo bello, di nuovo davanti al gruppo a tirare in fuga combattivo, ecco. Prima in fuga, poi davanti al gruppo a tirare, per mettere in ordine le cose che ha fatto Zan, e sta facendo tante in questo Giro d'Italia. Ci abbiamo parlato e ascoltiamo quello che ci ha detto subito dopo l'arrivo Filippo Zana della Jayco. Filippo, soltanto una cosa, ci racconti un attimo il momento in cui Dunbar ti ha quasi detto di no, ti ha fatto un cenno con la testa forse di andare più piano, di non accelerare troppo. Ma... come vi siete intesi? Lì ho cercato di dar quello che avevo. Sì, sono partito un po' troppo forte che magari lo mettevo un po' in croce io stesso, e quindi ho cercato di andare più regolare possibile e durare il più a lungo possibile. Una prestazione del genere ti fa venire in mente che un giorno potresti essere tu quello per cui gli altri lavorano per la classifica? Ma vediamo, è difficile far classifica, diciamo che magari un domani si proverà a preparare ancora meglio il giro e magari proveremo a fare qualcosa, dai. Congratulazioni, bravo. Grazie. E allora sì, questo era Filippo Zana, uno dei protagonisti di questa giornata in cui anche o soprattutto i gregari o come dire, gli ultimi uomini sono stati importanti. Le belle giornate del ciclismo di solito sono le giornate in cui anche le seconde o terze linee hanno un ruolo importante. C'è stato Zana, c'è stato Kuss in un modo o nell'altro in base ai punti di vista, c'è stato Jay Vine, fondamentale, c'è stato Diego Ulissi che voglio menzionare perché l'ha menzionato anche lo stesso Almeida. Ulissi era in fuga e secondo Almeida faceva tutto parte del loro piano di giornata, avere Ulissi in fuga per 200 km e fargli fare un chilometro, perché ha fatto un chilometro quando è stato raggiunto dal gruppo dove c'erano Almeida, Thomas e Roglic, e secondo Almeida è stato fondamentale quel singolo chilometro in cui Ulissi ha tirato sul bondone. Per dire, quando le giornate vanno come devono andare, Almeida ha detto perfection per la nostra squadra oggi. Quindi i gregari hanno avuto le lune giuste oggi? Sì, è stata una giornata, nonostante la pioggia sia tornata anche oggi a salutarci perché ne sentivamo la mancanza. Era un riferimento, volevi lanciare qualcosa parlando sì, di luna? Perché forse finalmente è tornato. Forse immagino che cos'è. Il grande oroscopo di Asterio Tre Fortune. Sentiamolo. Le stelle si raccontano. L'oroscopo di domani dal genius di Asterio Tre Fortuna. Per il giro, per la tappa, per la vita. Ariete. Amico dell'Ariete, l'estate è praticamente arrivata, siamo a fine maggio e non sei pronto. Non è che arriva all'improvviso, non sei pronto. Toro. Te lo devo dire in tedesco, Toro. Commodore 64 non esiste più, basta. Gemelli. Le stelle ti hanno visto e non ti hanno visto. Accendi e spegni, gemelli, vogliamo continuare così? Cancro. Tecnica da adottare domani in gara, Cancro. La tecnica è la seguente: tu beviti la borraccia e quando bevi la borraccia attacchi. Leone. Amico leone, amico leone, sta tutta una petizione di persone, stanno a centinaia e a centinaia che attendono il tuo ruggito. Leone, e faccio sto ruggito. Domani ruggisci. Vergine. Hai parlato con Pasquale? Come lo so, me l'hanno detto. Chi me l'ha detto? Le stelle me l'hanno detto. Una cosa dovevi fare, evitare Pasquale. Niente, Vergine, niente. Parliamo a vuoto. Bilancia. Pure la pizzata con quelli della Zumba ha organizzato l'amico della bilancia. No comment, no comment. Scorpione. Scorpione, tu dai troppa fiducia a tutti. Parli con tutti, dai fiducia a tutti. E poi piangi. E bravo, bravo, fai come vuoi. Sagittario. Tempo variabile. Meglio restare a casa. Ci siamo capiti, Sagittario? Capricorno. Tra vedere e non vedere, amici del Capricorno, abbondate con il sugo. Acquario. Va molto meglio la bici con il cambio, vero? Lo so, è che ti avevo detto io. Pesci. Ho visto l'amico dei pesci che ha fatto una lista che fa riferimento alle liste che si accumulano nel cassetto delle liste. Guarda, non sappiamo più cosa fare con te. Io e le stelle ogni sera parliamo di te e non sappiamo più che pesci prendere. Pesci. Le stelle consigliano. E se il dromedario di Neanderthal ti assomigliasse? Sì. No. Sì. È incredibile come Asterio, o forse più che Asterio, la sua assistente, non so come si definisca, abbia sempre, si ponga sempre le stesse domande che mi pongo anch'io. Cioè? E se il dromedario di Neanderthal mi assomigliasse? Questa è una domanda. Cioè, io ogni mattina è uno di quei quesiti che mi portano, sì, così ogni mattina. Io invece è un appunto da fare ad Asterio, perché se non sbaglio riguardo il Capricorno ha suggerito di abbondare col sugo, mentre è il ketchup che in questo giro d'Italia funziona. Beh, ma il ketchup è un sugo. In un certo senso, se vogliamo. Ma invece sapete, visto il leone, il segno, come dire, che più aspettiamo, attendiamo in questo giro, sapete di che segno è João Almeida? No, ma lo verificheremo. 5 agosto, cosa vuol dire? Che è del leone. Ah. E infatti il ruggito oggi c'è stato. Ha ruggito? Beh, insomma, sui pedali. Sui pedali sono capaci tutti. Io voglio sentire proprio... João Almeida che fa. Poi con la R portoghese sarebbe bellissimo. Sarebbe molto bello. Speriamo che ruggisca per noi. Va bene, torniamo un attimo, facciamo un passo indietro, perché questa mattina, prima di andare al gazebo a firmare la petizione per il ruggito del leone, abbiamo parlato anche con dei corridori. Sì, siamo andati a una festa di compleanno stamattina. Sembrava, no? Sì, che ci fosse una festa di compleanno. Era il compleanno di Lorenzo Rota e c'era una banda a suonare il buon compleanno, e non solo per lui, una proprio di fronte al bus. Una fanfara, e ci siamo chiesti a lungo nell'auto 3 di Shimano che fanfara fosse. Cos'erano, gli alpini, i bersaglieri? A me sembravano più bersaglieri, sì. Una piuma ce l'avevano. Sì, sì, erano bersaglieri a 100 penne, che io sappia dalla canzone. Bersaglieri a 100 penne, l'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare. Dovrebbe essere forse così. Erano gli alpini, non lo sappiamo. Comunque suonavano. Ci siamo, il suono della musica dei bersaglieri ci ha attirati, quindi siamo andati a parlare, non con i bersaglieri, ma con Lorenzo Rota del suo compleanno. Ascoltiamo la chiacchierata con lui e subito dopo ci aggiungiamo anche la solita, la giornaliera chiacchierata con l'infante del paese, come lo chiamiamo, perché oggi si partiva nella provincia di Brescia e uno dei bresciani del gruppo, uno dei fuggitivi anche oggi in fuga di questo Giro d'Italia, è Alessandro Tonelli della Bardiani, e quindi ascoltiamo Lorenzo Rota e Alessandro Tonelli. Lorenzo Rota, buon compleanno. Grazie mille, gentilissimo. Allora, abbiamo sentito questa banda che è venuta a suonarti. Tanti auguri. Sì. No, suonavano un po' meglio di così. Lo sapevi? È una sorpresa? Chi te l'ha fatta? No, guarda, ero in bagno, sinceramente. Quindi, no, non lo so, si vede, non so, Valerio, qualcuno ha organizzato la cosa e niente, dai, mi ha fatto piacere. Allora, tu eri in bagno e qualcuno è venuto a chiamarti, hai sentito la canzone? Sì, no, insomma, ero in bagno, mi hanno detto scendi e sono sceso al volo e niente, è stata una bella sorpresa. Abbiamo visto che sei tornato, il tuo addetto stampa, con un altro bel pacco grande che hai ricevuto. Che cos'è, un regalo? Non l'ho ancora aperto, sinceramente, me l'hanno dato alla partenza. Adesso, quando salgo sul bus, vediamo cos'è. Ma chi è che te l'ha dato? Mi cogli impreparato. No, qualcuno dell'organizzazione. Okay. Ma invece dalla tappa, quella corsa che parte tra poco, che regalo ti aspetteresti per festeggiare il compleanno? Ma mi aspetterei di avere buone sensazioni, cosa che purtroppo nella prima parte del giro non ho avuto. Poi niente, guarda, l'unica cosa che mi auguro è questa, poi quello che verrà, io mi impegno sempre al 100%, quindi questo è l'importante per me. L'ultima cosa, è vero che tu consideri la Colombia il paese più bello del mondo, perché c'è questa cosa di Vamos Colombia con i tuoi compagni? Ma guarda, io è tanti anni che vado in Colombia adesso a allenarmi, a fare altura, è un paese che amo molto, è molto diverso rispetto a qua, anche culturalmente parlando, e mi piace molto, sì. Non so se in futuro magari ci andrò a vivere magari qualche anno oppure no. Ho anche parecchi amici là adesso, quindi mi piace tornare quando posso. Purtroppo il tempo è poco, però quando posso andare a fare altura lì ci vado molto volentieri. E più che altro è un altro modo di fare altura, è molto, tutto molto più tranquillo e la vivi un po' diversamente rispetto a un'altura classica, e questa cosa mi piace. Se avessi festeggiato il compleanno in Colombia, cosa avresti mangiato? Dove saresti andato a mangiare? Ma guarda, non si mangia molto bene, ti devo dire la verità. In Italia si mangia decisamente molto meglio, probabilmente qualcosa di non troppo pesante, abbastanza leggero e... Non so dirti adesso di, vabbè, di preciso cosa. Stasera qui una pizza, un gelato, qualcosa ci vuole. Per sì, no, stasera sicuramente la torta non può mancare. E qualcosa di buono mangiamo di sicuro. Ci lasci con un Vamos Colombia detto da te. Certo, Vamos Colombia. Grazie Lorenzo, grazie, in bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie, auguri. Grazie. Alessandro Tonelli, come stai? Come stai? Siamo a casa tua quasi. Sì, siamo nella mia provincia, diciamo che ero più vicino a casa alla tappa di Bergamo rispetto a questa di Sabbio, però sempre a provincia di Brescia. Fisicamente bene, sono un po' intasato dal catarro, però tutta l'acqua e il freddo che abbiamo preso, speriamo se rimanga solo quello, ecco. Senti, la tua famiglia anche, perché io so che tu vivi ancora con i tuoi, giusto? Sì. Qui vicino, mi racconti un po' come siete organizzati? No, oggi purtroppo non vengono loro, sono venuti domenica all'arrivo di Bergamo, come ti ho detto appunto, perché sono molto più vicini. Dopo ho mia nonna che serve da badargli, quindi oggi non sono riusciti a venire. E mentre domenica avevo i miei genitori, mia sorella, mia ragazza e i suoi genitori a Bergamo all'arrivo. È stata una bella sorpresa, ecco. Ma tua nonna guarda ancora le gare di ciclismo? Sì, in sì. TV? Anche sia mia nonna che mio nonno le guardano. Tuo nonno è stato colui che ti ha ispirato? Ti mio ha... nonno paterno, che è morto ancora nel 2011, è stato quello che mi ha detto di provare, insieme a un suo amico che è il vicepresidente della squadra del paese era, e da lì ho iniziato, da quando ero G1 fino adesso. Senti, è vero che la tua prima bici l'hai avuta in cambio di buoni voti a scuola? Sì, ho iniziato per quello, ho iniziato appunto perché avevo chiesto a mia mamma se potevo praticare uno sport. Mia mamma mi fa: se vai bene nel primo quadrimestre a scuola, prima elementare, potrai fare qualcosa. Così sono andato bene e ho iniziato. Quindi primo quadrimestre della prima elementare? Esatto. Di che scuola? All'elementare di Bornato. A Bornato, ok. Parlando con te, ultima cosa, non si può non parlare di fughe, occhio che c'è un insetto. E mi interessa chiederti l'aspetto mentale, non la preparazione. Tu sai che stamattina dovrai prepararti mentalmente perché vuoi andare in fuga. È così o si improvvisa di più? Ma ormai per me è diventato quasi un meccanismo normale, nel senso che sono abituato ad andarci fin da quando ero giovane, perché le mie vittorie le ho costruite tutte all'attacco. Mai, non ho mai vinto una volata di gruppo così, e è un'abitudine ormai. Parto già mentalizzato che dovrò fare questo tipo di lavoro, e man mano che passano i chilometri ti aumenta la fiducia se il gap rimane sempre quello, se vedi che vai forte. E mentre tappe tipo oggi, che dal mio punto di vista ok, la fuga può andare, ma non potrà forse arrivare all'arrivo, parti sempre con la stessa motivazione, ma man mano che passano i chilometri diminuisce, diciamo. Tu ti diverti però a farlo? Ti diverti comunque, perché alla fine è quello che hai sempre fatto, e se lo fai vuol dire che ti piace. Cosa significa per te la fuga in una parola? Libertà. Grazie mille, in bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie mille a te. E allora, come sempre, viva la fuga, viva la libertà e viva i nonni che anche oggi, grazie a Alessandro Tonelli, sono entrati nel nostro podcast, e la cosa ci rende ovviamente felici. Sì, Tonelli che per la cronaca è arrivato 48esimo a 19 minuti e 30 secondi dal vincitore di tappa, per cui insomma è vero che era in fuga, aveva preso il vantaggio, ma non ha certo sfigurato neanche nell'ordine d'arrivo. Tonelli io l'ho visto poco quest'oggi, poi nel corso della corsa, perdonatemi questa espressione, perché come dicevo prima sono salito a bordo dell'auto numero 3. L'auto numero 3 è quella che sta costantemente alle spalle dell'auto del direttore di giuria, per cui è quella che sta sempre nel vivo della corsa. Quindi non abbiamo visto nulla della fuga perché eravamo nel gruppo dei migliori, ma abbiamo visto tante scene importanti di corsa, e devo dire che mi sono anche un po' emozionato a poter vedere una tappa bella combattuta da un punto così privilegiato, veramente a ruota dei migliori. E vi faccio sentire così un montaggio parziale, perché di materiale oggi ne abbiamo un'infinità, magari lo riutilizzeremo nei prossimi giorni, magari ve lo racconteremo a voce un'altra volta, di quello che è successo oggi a bordo dell'auto dell'assistenza tecnica neutrale di Shimano. Sabbio Chiese, Monte Bondone, siamo pronti a partire, c'è il... Signori, dobbiamo toglierci da qua, mi dispiace ma dovete andare là, dobbiamo uscire con le macchine e con le ammiraglie. il direttore del traffico che si sta sgolando, non so se è così tutti i giorni in partenza. No, normalmente no, però oggi c'è il bel tempo, la gente è uscita fuori. Paese piccolo, è bello così, eh. Sì, sì, lui deve avere una capacità vocale incredibile per riuscire a... Sì, è un'ora che sta urlando. Ci siamo, chilometro zero, pronti a partire. Allora, oggi siamo in auto con... Nicola. E... Riccardo. Siamo entrati in Trentino. Per un bel pezzo abbiamo costeggiato la pista ciclabile a bordo strada, che adesso non vedo più. Però ci sono un sacco di gallerie, tutte con dei nomi bellissimi. Prima c'era la galleria Limniadi, adesso la galleria delle Furie e la galleria Grazie. Ah, galleria dei Gorgoni, c'era un corridore di cui non facciamo il nome, che si è fermato anche lui per una pausa fisiologica e poi ha approfittato un po' della scia, si può dire in questo caso. Sì, in questo caso si può dire, quando si fermano per bisogni fisiologici o per guasti meccanici ne possono approfittare della nostra scia. Ma la cosa bella non è tanto la scia, la cosa bella è che quando ti passano ti ringraziano e quello fa piacere. Prima che inizino le salite, che poi... E poi diventa complicata. Nicola, mi racconti, perché tu stamattina hai fatto l'assistenza tecnica anche a un cane. Bellissimo. C'era questo canino che aveva sete e sicché abbiamo tagliato una borraccia e abbiamo dato l'acqua e i padroni ci hanno ringraziato tantissimo perché non si aspettavano questo caldo e la bestiolina aveva sete, quindi noi l'abbiamo aiutata. Ci fa molto piacere. È l'unico caso di borracicidio che approviamo. Sì, veramente. Però lo facciamo molto volentieri. Primo intervento della giornata del servizio di assistenza, escluso il cane alla partenza. Filippo Fiorelli, borraccia voleva, semplicemente. Sì, è intercalato, prima è andata la macchina del medico, poi ci ha affiancato, ha voluto una borraccia d'acqua. Anche perché la strada è strettissima ed è dura riuscire, per le ammiraglie è impossibile passare, sta ai corridori fare su e giù e trovare aiuto dove lo trovano. Ce ne siamo lasciati alle spalle un po' di corridori e poi adesso manovra assurda di Gianni Moscon che non abbiamo capito perché... fatto in versione a U ed è tornato, credo, verso la sua ammiraglia. Forse voleva fare un altro po' di salita. Vuoi gel qualcosa? Un'altra acqua? Tante cose escono dall'ammiraglia, ma altre entrano. Per dire, Luis Leon Sanchez ci ha smollato la sua musette praticamente completa. Non io sono fermo. Ha preso niente. Ha preso una coca e abbiamo un total energy shot che se butta male. Sì, ci prende sonno, lo possiamo prendere. Un po' di barrette segnate con lo scotch, pacchettini. Questo è un paninetto. Adesso ce l'assaggiamo. Si sono tranquillizzati, pian piano un po' di gente è rientrata, adesso passo abbastanza regolare e si scende. Noi, al di là di aver restituito le mantelline alla Trek che c'erano state date prima, siamo tranquilli oggi. Ho visto che Luis Leon Sanchez si è disfatto di un'altra musette, ma l'ha data alla Eolo, non l'ha data a noi questa volta. Dana, informate il vostro corridore di staccarsi, che dietro di noi c'è la Shimano e gli può dare l'acqua. Fanno spazi andare, no cazzo? Simone Velasco che sventola la mano assetato, ha sventolato la borraccia più volte, non però... passateci però, Siamo arrivati nel comune di Calliano, che ho visto il cartello all'ingresso, è gemellato con il comune di Calliano in provincia di Asti, per cui giustamente i due Calliani fanno comunella e vediamo se adesso il buon Velasco, che era completamente assetato, non siamo mai riusciti a raggiungerlo, eccolo lì che alza il braccio e gli diamo dell'acqua ai ragazzi della Stana. Grazie. Ma te ne vuoi? Grazie, aspetta. e oggi ne abbiamo fatti fuori abbastanza, come hai visto, tra gel, barrette, borracce. Strano, perché non era quel caldo, quel gran caldo, però la forza si è proprio esplosa, quindi ammiraglie c'erano, non c'erano. Comunque abbiamo sempre quelli di Luis Leon Sanchez, se serve. E il panino che con quella strana sigla. Sembrava, invece è stata una bella tappa, sì. Poi ce la siamo vista in prima fila. Sì, è il bello di questo lavoro, no? Abbiamo sempre un posto in prima fila. Bella, sì. Tra i tanti corridori a cui abbiamo distribuito borracce oggi, c'era anche Alberto Dainese, che aveva già un certo feeling con l'auto del servizio di assistenza di Shimano, perché si è fatto tanti chilometri da solo nella tappa di Bergamo. E questa è stata una delle occasioni, una delle ragioni per cui siamo voluti andare a parlare con Alberto Dainese questa mattina di quello che è successo ciclisticamente ieri, anche se non era ieri, e anche di quello che succede domani, perché diventa anche lui, a modo suo, un infante del paese. Alberto Dainese, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Meglio, dai. Com'è andata a Bergamo? È stata una bella avventura, diciamo, dai. Ho sofferto, di influenza intestinale per qualche giorno, e quindi non è stata facile. Mi sono dovuto fermare un paio di volte, più di un paio di volte. Dai, dalla fuga essere ultimo a 50 minuti, sì, è una bella differenza, però sono qua, quindi speriamo che oggi sia meglio. Cosa passa nella testa quando ci si trova lì da soli, in fondo, a faticare contro il tempo massimo e a inseguire? Sì, sicuramente quando non stai bene ti viene il dubbio, devo fermarmi o meno. E mi è venuto due o tre volte quel giorno, ma la voglia di comunque finire il giro, e anche sapendo che c'era il giorno di riposo il giorno dopo, mi ha portato comunque a lottare, diciamo. Il tempo massimo era parecchio quel giorno lì, quindi non ero stressato da quel fattore lì, però sicuramente non è stata una giornata piacevole. Però dai, ho avuto anche parecchio tifo sulla strada, e è stato anche bello per quelli. Senti, io ti cercavo perché, scusami, so che non sono esattamente i tuoi posti, però domani andiamo in Veneto, non so cosa conosci della zona. Allora, ditino sulla mano. Aspetta. Beh, allora, io conosco parecchio questa zona qui, Rosà, poi verso anche Castelfranco, e ho corso anche in Zalfe, quindi mi sono allenato parecchio su quelle zone lì. Caorle si va al mare, non so bene cosa vuoi sapere, però Jesolo non ha bisogno di presentazioni, è speciale. Se devi fermarti a mangiare, direi, non so se ci passiamo vicini, ma da Fior, dato che ho corso in Zalfe, queste zone qua si può fermare. Tu dove andavi al mare da bambino? Jesolo, quindi ci passiamo. Ci vai ancora? Sì, ogni tanto, sì. Hai un gruppo di amici? Sì, sì. Dei ricordi di gioventù delle tue estati a Jesolo, sì. Quello che si può raccontare? Ma anche un po' di festa, sì. Quello che si può raccontare, dai. Quindi a fine giro, bagno a Jesolo? Sì, magari anche domani, se c'è tempo. Va bene, allora, ci vediamo in spiaggia. Grazie mille. E allora, domani arriviamo in Veneto. Michele, dici qualcosa sul Veneto, no, su tutto il Veneto, sulla tappa di domani, l'arrivo a Caorle. Intanto ti dico che la nuova maglia nera è veneta, sì? È di Cittadella. Sì, Nicolas Padovano, della Valle. Anche lui. Nicolas della Valle è... della Corratec, sì, lo sto vedendo in questo momento. Sì. E penultimo è Alberto Dainese, quindi due padovani chiudono la classifica generale del giro in questo momento. Comunque dalla Valle. Sì. Ho citato l'altro ex proprietario della Fiorentina, chiedo scusa. Ha fatto un grande balzo in avanti Yukiya Arashiro, già ospite a Gironimo, insomma ormai è quarto ultimo, insomma lanciatissimo. Però il giro è ancora lungo. Com'è la tappa di domani? Esatto. C'è veramente poco da dire, però diccelo quel poco. È letteralmente tutta in discesa, perché si parte a circa 500 metri sul livello del mare e si arriva sul mare, quindi a zero. Si parte nei pressi e così torna un po' l'angolo orografia dai laghi di Caldonazzo e Levico, da Pergine Valsugana. L'anno scorso siamo partiti da Borgo Valsugana, quindi Valsugana molto, molto partente, ecco, in questi ultimi giri d'Italia. Si scende tutta la Valsugana, si sbuca a Bassano le Grappa, uno dei posti più veneti del Veneto, Castelfranco Veneto, Treviso, Silea, Jesolo. Jesolo si fa il lungomare fino al traguardo di Caorle, al 99% sarà volata. Domani è difficile sfuggire alla volata. Il vincitore, il favorito, chi potrebbe essere? Nome e cognome, possibilmente? Oggi è andato in fuga, ha già fatto circa 200 secondi posti in questo Giro d'Italia, sarà Jonathan Milan. Beh, che ha vinto una tappa. Certo. Tra l'altro è andato in fuga a prendere punti per la maglia ciclabile, l'ho apprezzata quella mossa lì, l'ha già praticamente vinta quella maglia, davanti a Derek G, oltretutto, in classifica. Chissà quante altre volte un debuttante vince a ciclamino, Filippo. Chissà. Qualcuno lo saprà. Io no, qualcuno lo saprà. Io oggi l'ho visto invece alla partenza, molto molto felice, sorridente, con tutta la famiglia, bambini, compagna. Ho già capito chi è. E ieri si è tolto un peso, anche se era un peso da poco. Oggi di nuovo l'ho visto fare gruppetto con grandi sorrisi, sta bene, è contento. Domani non si arriva sul livello del mare, ma si arriva a un metro sul livello del mare, e quindi sarà un numero uno a vincere, Mark Cavendish. Sì, sì, anche se io spero, mi piacerebbe che vincesse Cavendish, però secondo me razionalmente domani vincerà ancora una volta Pascal Ackermann. Questi erano i pronostici di oggi, abbiamo ripreso i pronostici di ieri, volevo sapere, perché non so come funziona, magari è successo e non me ne sono accorto, se Michele per caso hai già flexato. Sì, è un verbo che ti ho già spiegato, peraltro. È un verbo che mi hai già spiegato e mi sono dimenticato. Come l'hai già fatto, ok. Sì. E nessuno di noi è rimasto offeso, per cui... Nessuno se ne è accorto. Nessuno sì. se ne è accorto. Bene così. Bene così, bene anche se riusciamo a smettere di registrare questi podcast e iniziare a mangiare le nostre cene, che sarebbe una buona attività. A breve la faremo. Io non ho detto all'inizio dove eravamo, per cui lo dico ora. Siamo nella Weinstube dell'Hotel Montana, che è la cantina dei vini. Infatti fa anche un po' fresco e c'è la cantina, ma non stiamo bevendo. Vedremo di farlo. Ma non siamo a Crans Montana, vero? No, all'Hotel Montana. Hotel Montana. Carne Montana, e poi sappiamo come proseguiva il pezzo degli Squallor. Dove saremo? Stasera saremo ad Arco, ma io lo dico già, adesso per una volta sappiamo dove andiamo nei prossimi giorni, così per le cornucopie. Allora, domani e dopodomani siamo all'Hotel Magnolia di Preganziol, tra l'altro nome magnifico, per cui aspettiamo cornucopie in abbondanza e nell'attesa vediamo di cornucopiarci la nostra cena, se riusciamo. Ho anche un po' di strudel, perché visto che c'era dello strudel buonissimo qui fuori dalla nostra cantina. Basta, abbiamo finito? No, c'è qualcosa con cui vi salutiamo oggi? C'è un contributo che sì, riguarda. Sì, perché ieri stavo parlando della tappa di oggi con un'amica trentina che mi ha augurato una buona salita al Bondone e mi ha detto: attento ai lupi, alle Viotte, località del Bondone, ne vivono tre. In realtà sono andato un po' in forum e ho scoperto che ci sono 26 branchi di lupi in questa zona, non sono pochi. E quindi mi è venuta così la curiosità di dare spazio anche a questo argomento, perché noi guardiamo sempre queste corse, guardiamo il ciclismo, vediamo le immagini dall'elicottero, immersi nella natura, e ci focalizziamo sugli uomini, su delle persone che vanno in bicicletta lì in mezzo. Però quell'ambiente appartiene ad altri, anche ad altri, se non soprattutto ad altri. E siamo in una zona che è ricca di fauna selvatica. Abbiamo chiesto a una persona di raccontarci la storia dei lupi e degli orsi del Trentino. Questa persona è Piero Genovesi, che è responsabile del servizio per il coordinamento della fauna selvatica all'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente. E con le sue parole vi salutiamo, ruggiremo, ululeremo e andiamo verso la cena. A domani, ciao. Ciao. Le montagne del Trentino ospitano una fauna straordinaria. Chi ha la fortuna di visitare questa provincia può fare alcuni degli incontri più fantastici che possono occorrere in Italia con la fauna del nostro paese. Dal cervo al capriolo, ma soprattutto i grandi animali di montagna, lo stambecco, il camoscio o anche la marmotta che popola i pascoli delle alte quote. E in cielo potete vedere l'aquila reale o il gipeto, il più grande avvoltoio europeo, completamente scomparso in passato dalle Alpi, che è tornato grazie a un progetto internazionale di reintroduzione. Ma il Trentino ospita anche due degli animali più affascinanti e a volte anche più temuti del nostro paese, l'orso e il lupo. Sia il lupo che l'orso erano scomparsi dal Trentino. Cominciamo dalla storia del lupo, che è molto curiosa. Il lupo era stato oggetto di una persecuzione secolare da parte dell'uomo per gli attacchi che fa agli allevamenti ed era scomparso da quasi tutta Italia. Erano rimasti alla fine degli anni 70 poco più di 100 animali in tutta Italia, soprattutto nelle montagne più impervie dell'Abruzzo, della Toscana o della Calabria. E quando fu protetta questa specie, piano piano il lupo ha cominciato a riprendersi, a espandersi e naturalmente è tornato a ricolonizzare dapprima l'Appennino, ha raggiunto le Alpi all'inizio degli anni 90, ma nel 2012 avvenne un caso particolare. Una femmina di lupo, che noi abbiamo chiamato Giulietta, cercando un territorio dove creare un proprio branco, ha raggiunto le montagne della Lessinia, a nord di Verona, dove ha incontrato un maschio che invece veniva dal lato opposto delle Alpi, dalla Slovenia, Slavik, un animale che veniva seguito con un radiocollare dai colleghi in Slovenia. Questi due animali si sono trovati molto bene, hanno fatto la prima cucciolata nel 2012 con 11 lupetti e piano piano il lupo ha cominciato a riespandersi in tutte le Alpi centrali. Quindi a partire da questa coppia che, essendosi trovata vicino Verona, è stata ribattezzata dalla stampa internazionale Giulietta e Romeo, il lupo ha piano piano ricolonizzato gran parte del Trentino, dell'Alto Adige e del Veneto, e dei circa 1000 lupi presenti sulle Alpi, più di 250 vivono in queste zone. L'orso invece ne erano rimasti due o tre animali, due o tre vecchi maschi alla fine degli anni 90, dopo anche l'orso oggetto di una lunga persecuzione da parte dell'uomo. E in quegli anni la provincia di Trento, insieme al parco d'Amello Brenta, lanciò quindi un progetto di reintroduzione. Si catturarono 9 animali in Slovenia, dove l'orso era cacciato, quindi furono sottratti alla quota di caccia di quel paese. Furono riportati in queste montagne, che erano particolarmente adatte ad ospitare una popolazione di orso, perché sono ricche di cibo, di boschi, dei territori di cui l'orso ha bisogno. Infatti l'orso si è trovato molto bene. La popolazione si è progressivamente accresciuta e attualmente in Trentino vivono, stimiamo, più di 100 orsi che popolano le vallate, le montagne di questa provincia. L'orso ha una biologia molto particolare: d'inverno tende a entrare in una fase di letargo, in primavera esce dalla tana e mangia quello che trova, spesso carcasse di animali morti durante l'inverno, ma durante l'anno ha una dieta molto varia, può mangiare dall'erba, pascolando l'erba in primavera, bacche, frutte, piccoli insetti, larve di formica o di api, miele quando riesce a penetrare in qualche apiario, può predare anche animali e fa anche qualche danno perché può predare pecore o anche animali più grandi dell'uomo. A fine autunno, quando sta per rientrare nella fase di letargo, deve accumulare tantissimo grasso per poter sopravvivere ai mesi invernali. Ed è proprio in tana che nascono i cuccioli, che poi usciranno solamente verso febbraio o marzo dalla tana.